2024 di Enrico Pagliarini. Prima puntata del 2020, bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Si avvicina sempre più il 2024 e molti ascoltatori mi scrivono, ci chiedono che cosa succederà al nome del programma nel 2024. Abbiamo ancora 4 anni per discuterne, per decidere, per pensare se cambiare nome, se mantenere lo stesso nome oppure se chiudere tutto e dedicarsi a qualcos'altro. Ci sono varie possibilità, varie idee che ovviamente ci frullano in testa, ma appunto abbiamo tempo per decidere. Dite la vostra scrivendomi a 2024@radio24.it oppure anche usando Facebook, Twitter o LinkedIn. Effettivamente 20 anni fa sembrava un obiettivo molto lontano, invece questo obiettivo si sta avvicinando sempre di più. Facebook ha annunciato che rimuoverà i video deepfake, i video falsi creati da sistemi di intelligenza artificiale e altri video fortemente manipolati che possano creare disinformazione. Facebook ha precisato che non eliminerà invece i video satirici. Capite anche voi che la difficoltà nel trovare in alcuni casi il confine fra parodia e disinformazione è difficile. Questa attività verrà effettuata in parte con sistemi automatici, in parte tramite revisione umana, come succede oggi per la stragrande maggioranza dei contenuti di Facebook che vengono intercettati laddove vadano contro la policy del social network, vengono intercettati da sistemi automatici, ma poi ci sono migliaia di persone che si occupano della revisione. La decisione di Facebook rientra in un più ampio sforzo per ridurre la quantità di notizie false in vista delle elezioni presidenziali di quest'anno. C'è un dibattito anche su altre scelte fatte da Facebook, che negli ultimi giorni ha annunciato di aver esteso le possibilità degli utenti di bloccare certi annunci, ma ha anche detto che non vieterà gli annunci politici anche laddove fossero palesemente falsi. Vedremo se questo atteggiamento cambierà. Ricordo che Facebook ha anche lanciato a fine estate Deep Fake Detection Challenge, una sfida per università, centri ricerca, ricercatori in genere che riescano a sviluppare tecnologie in grado di individuare i video fake, quindi video falsi. Anche le nuove policy pubblicate da TikTok prevedono il blocco di campagne di disinformazione che possano urtare la sensibilità dei propri utenti e del pubblico. Un giro di vite alle proprie regole che anche in questo caso lascia ampio margine ai gestori dell'app su cosa fare passare sul social network, che ormai è diventato molto popolare anche in Occidente, soprattutto fra i giovanissimi. TikTok, ricordo, è un social network di micro video cinese. TikTok è stata accusata di aver censurato contenuti politicamente sensibili durante le recenti proteste a Hong Kong e in particolare gli Stati Uniti hanno sollevato anche problemi di sicurezza nazionale vista la proprietà cinese dell'app e infatti l'esercito americano ne ha da poco vietato l'uso. Comunque, queste notizie servono per ribadire ancora di più e ancora una volta, e sicuramente questo sarà uno dei grandi temi del 2020, visto che ci sono anche le elezioni politiche negli Stati Uniti, e per la verità non solo negli Stati Uniti, anche in Italia avremo elezioni politiche a livello locale in varie occasioni, per ribadire ancora di più il ruolo sempre più importante che queste piattaforme per la diffusione del pensiero, delle opinioni e anche della disinformazione hanno nella società di oggi. Il dibattito su quanto questi network, questi social network debbano autoregolamentarsi o invece siano necessarie leggi che impongano tutta una serie di paletti. È un tema molto interessante, estremamente complesso, ma queste due notizie per accennare a questo dibattito. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Israele si conferma una delle nazioni più attive nella capacità di attirare capitali per finanziare start-up. Secondo lo Israel Venture Capital Research Center, nel corso del 2019 le società tecnologiche israeliane hanno raccolto 8,3 miliardi di dollari con un incremento del 30% rispetto al 2018. Giusto per avere un paragone, le start-up italiane hanno raccolto lo scorso anno circa 700 milioni. Il Regno Unito, che è il principale mercato europeo, almeno geograficamente parlando il Regno Unito è in Europa, vale circa 11 miliardi, la Germania quasi 6, la Francia quasi 5. Quindi una nazione molto piccola come Israele riesce invece a raccogliere 8,3 miliardi, quindi se la considerassimo all'interno dell'Europa sarebbe il secondo mercato dopo la Gran Bretagna e il Regno Unito. Doppia operazione annunciata dal fondo americano di private equity Insight Partners. Acquisirà per 1,1 miliardi la società di cyber security Armis e per 5 miliardi la svizzera Veeam, che è specializzata in software per il backup, la business continuity, il disaster recovery. E quindi è sicuramente un'operazione molto interessante per il mercato. La svedese KRY, detta anche così, che opera nella sanità digitale, ha raccolto capitali per 155 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato dal fondo pensione degli insegnanti dell'Ontario. CRI fornisce consulti medici online in videoconferenza. La società opera in Svezia, Norvegia, Germania e con il nome Livi in Gran Bretagna e Francia. Alcuni potrebbero sorprendersi e sorridere che una società che fornisce consulti medici online riceva capitali per 155 milioni di dollari, ma questo è un business in evoluzione e in grande crescita, dato in grande crescita nei prossimi anni. A proposito di finanziamenti per lo sviluppo delle startup, Zappi, scritto con la Y finale, Zappi Rent, che è una startup italiana che permette di trovare una casa in affitto con un processo prevalentemente online, ha annunciato di aver raccolto finanziamenti per 2,5 milioni di euro. Zappi Rent è operativa a Milano, Roma, Firenze e Catania e punta a fare visitare l'appartamento con un tour virtuale 3D. Quindi non ti muovi, stai in casa davanti al computer o davanti a qualsiasi altro device e ti guardi gli appartamenti, e sicuramente questo è già un filtro, un vantaggio per mettere appartamenti in affitto. Un'ultima notizia riguarda il 5G, almeno per quanto riguarda le sperimentazioni che sono in atto un po' dappertutto. In Italia esistono già piccole limitate reti commerciali, insomma servizi appena nati. Comunque un test effettuato da TIM con hardware di Ericsson e di Qualcomm ha raggiunto una velocità di 2 gigabit al secondo su rete commerciale 5G su onde millimetriche a 26 GHz. Questa è la velocità a cui si arriva oggi. Ricordo sempre e approfitto per ricordare che quando parliamo di etere, poi questa è una velocità che va, una capacità della rete che va condivisa con tutti quelli che stanno attaccato. Comunque vedremo quali saranno le capacità anche del 5G di mantenere velocità per singolo device, ma è inevitabile poi che ad un certo punto ci si debba dividere la risorsa scarsa dell'etere. Più tardi a 2024, in questa che è la nostra prima puntata del 2020, parleremo di applicazioni, di sviluppo di applicazioni, con una storia molto interessante di successo italiana, una delle più grandi aziende al mondo per lo sviluppo di applicazioni per iOS, è di Milano, Bending Spoons. Di questo parleremo tra poco con uno dei fondatori. Adesso ci colleghiamo con il Consumer Electronics Show, il CES di Las Vegas. C'è Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale D-Day.it. Gianfranco, bentornato. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Adesso fai sembrare che io sia sempre a Las Vegas, una volta all'anno. Beh certo, però solo una volta all'anno. È nel momento opportuno e giusto. Partiamo subito, abbiamo scelto ovviamente di tracciare alcuni trend, poi nelle prossime settimane, quando ci rivedremo nei nostri studi, approfondiremo alcuni di questi trend che vengono segnati dalle tecnologie tecnologie e dalle novità che vengono presentate al CES. Partiamo come sempre, anche perché tradizionalmente questa è una fiera dove la parte TV, la parte dei display, dell'immagine è estremamente importante, se non altro per gli spazi occupati nei principali padiglioni dai televisori. Quali sono i principali trend che sono stati e confermati o rinnovati? Beh, il trend principale che ha riguardato un po' tutti i produttori è l'8K. 8K significa una risoluzione di 4 volte un TV 4K e di 16 volte un TV Full HD. È un trend che è già iniziato nel 2019 con il lancio dei primissimi grandissimi prodotti, prima da parte di Samsung, poi seguita da parte di Sony ed LG. E adesso l'8K si trova fondamentalmente in tutti gli stand che si occupano di TV. E qui potremmo porci forse la domanda, ma magari ce la poniamo appunto in un approfondimento fatto anche un po' più in profondità, su se ha senso o non ha senso l'8K. Perché contenuti al momento non ce ne sono o sono molto molto limitati. Certo, è l'unico modo per esempio per vedere una fotografia a 33 megapixel invece che 8 megapixel, però non sono in previsione all'orizzonte delle trasmissioni 8K. Addirittura dirò di più, non è ancora stato definito uno standard broadcast 8K. Bisognerebbe affidarsi più che altro allo streaming e alla rete. In questo momento YouTube ha già dei contenuti 8K, però i TV 8K non sono in grado di visualizzare YouTube in 8K perché l'ambiente smart non è ancora 8K. Quindi sono dei prodotti che certamente segnano un grande trend, diciamo che spesso e volentieri nei prossimi mesi qualche utente si troverà in casa un TV 8K senza saperlo, semplicemente perché ha scelto di volere un top di gamma. E quindi i top di gamma diventeranno via via 8K, e così chi vorrà un televisore al di sopra di ogni sospetto e dalle massime prestazioni probabilmente comprerà un TV 8K. Il vantaggio che ne avrà sarà da dimostrare, ancora non è chiarissimo. L'upscaling, il cosiddetto upscaling, quindi la possibilità di vedere una risoluzione più alta da contenuti Full HD e 4K, sicuramente c'è, ma non è come avere un contenuto 8K nativo. E poi servono schermi molto grandi, direi dai 75 pollici in su, mi verrebbe da dire, se no il vantaggio dell'8K è un po' vanificato. A proposito di tecnologie di visione, cioè di tecnologie del pannello, si è parlato negli ultimi anni della concorrenza tra LED e OLED. Ecco, da questo punto di vista cosa c'è di nuovo? Beh, allora, è una concorrenza che è molto interessante, che va avanti. L'OLED, diciamo, attacca un pochino gli spazi del LED, cioè quindi dell'LCD, facendo cosa? Presentando un pannello che era nell'aria, però non era confermato, ma è stato confermato a Las Vegas, il pannello OLED da 48 pollici. Ricordiamo per chi più distratti che l'OLED, il taglio più piccolo disponibile sul mercato in questo momento è il 55 pollici, quindi chi avesse uno spazio, diciamo, più ridotto rispetto al 1,20 m circa che servono per un 55 pollici, è costretto, anche se vuole l'OLED a tutti i costi, è costretto a ricorrere a un LCD. Adesso il 48 apre una fetta di mercato, attacca una fetta di mercato che fino a oggi era dell'LCD, e questo è l'attacco che fa OLED. È vero che questi 48 pollici, che molti aspettavano proprio per questi motivi, non saranno così economici, cioè può anche essere che il 48 pollici, quando verrà lanciato, per il momento l'ha annunciato LG, che produce anche i pannelli, e anche Sony, quando verrà lanciato probabilmente potrebbe costare anche più, anzi direi quasi sicuramente costerà di più degli OLED 55 pollici più economici sul mercato. Quindi il paradosso è che per comprare un 48 bisogna spendere qualcosa in più, però d'altronde quello è il TV per quelli che vogliono l'OLED e non possono avere lo spazio per un 55, se no è chiaro che il taglio più economico, perché è quello più diffuso, che ha più economie di scala, è il 55. E quindi questa è la novità sul fronte OLED. Sul fronte invece LCD c'è un pochino più di fantasia, diciamo così, non è soltanto una questione di taglio. Si stanno facendo delle innovazioni importanti. Innanzitutto migliora sempre più la cosiddetta retroilluminazione full LED. Quindi cosa vuol dire? Non avere dei LED sul bordo del TV che quindi illuminano uniformemente lo schermo, e questo crea ovviamente l'impossibilità di avere delle aree più chiare e delle aree più scure, quindi dei neri più scuri, ma avere una matrice di LED che retroilluminano il pannello LCD. Più è fitta la matrice, più si riesce a fare un cosiddetto local dimming, quindi ad avere delle zone scure, delle zone chiare secondo le necessità, in maniera più fine. Ecco, stanno aumentando queste aree e stanno aumentando in maniera molto importante, addirittura chiamando questi pannelli mini LED. In realtà sono sempre pannelli LCD, ma che dietro hanno una matrice molto più fitta di prima, arriva fino a 2500 mini LED, appunto, che retroilluminano la matrice. Non sono ancora, per motivi di limiti di calcoli, capacità di calcolo e di velocità di pilotaggio di questa matrice di LED, non sono ancora pilotati uno a uno, ma sono pilotati a gruppi e quindi fanno delle aree un pochino più grosse, ma questo significa che con queste tecnologie il LED riesce ad offrire un nero che assomiglia molto a quello dell'OLED. Perché quando io ho delle zone molto scure, posso solo in quelle zone andare a modulare la luce fino quasi a spegnere il pixel, o addirittura, se c'è un nero pieno, a spegnere completamente non il pixel, ma almeno quella zona. E questo consente di avere delle prestazioni quasi da OLED per quello che riguarda la qualità del nero, e con tutti i vantaggi indubbi che comunque il LED, cioè quindi l'LCD ha. Quindi per esempio il fatto di non essere soggetto al cosiddetto stampaggio, il burn-in, di non avere nessun, tutto sommato, anche dei consumi oramai molto ridotti, di avere dei costi di produzione più bassi. È un bel attacco dal punto di vista della tecnologia d'immagine, ma c'è anche un attacco dell'LCD per quello che riguarda l'estetica. Perché l'ha fatto Samsung, ha presentato dei TV che praticamente non hanno più il bordo. Cioè, il bordo l'abbiamo visto ridursi nei TV in questi anni, no? E la tendenza è sempre stata quella di una riduzione costante, fino a che quasi nei TV attuali è difficile per il produttore trovare un posto dove mettere il logo. Una volta era grande e grosso, sì. E adesso è diventato piccolissimo. Ecco, pensate a un TV dove scompare praticamente il bordo. Il bordo di questi TV è intorno ai 2 mm, forse qualcosa meno, ma comunque è meno di quello di uno smartphone. Sì, praticamente non si vede. Un bordo, un TV, no, un TV da 75 pollici, da 65 pollici, con un bordo più piccolo di quello di uno smartphone. Sì. Quindi non c'è più. Il TV diventa completamente immagine. Quindi è il design, teoricamente il design perfetto, però la domanda che io mi faccio è: ok, va bene, l'anno prossimo, nel senso che certo, arrivati a questo tipo di design non saprei che cosa fare, o si fa addirittura un display double face, ammesso che abbia senso, la questione del bordo è finita, ed è finita, devo dire la verità, prima con l'LCD che con l'OLED, anche se forse era quasi più facile farla finire con l'OLED. E quindi va bene, è una lotta che va avanti, e che va avanti sia sul fronte ovviamente del design, ma anche del prezzo poi, e sappiamo quanto poi questo conti, visto che le persone vogliono spendere sempre meno per acquistare TV. Dunque, quando tornerai nei nostri studi, tra gli approfondimenti che vorremmo fare, a proposito di TV e a proposito di futuro delle tecnologie, dedicheremo alcuni minuti su micro LED, qual è il punto della situazione, e laser TV, due tecnologie di cui avete visto, avete parlato in questi giorni. Si conferma al CES di Las Vegas la smartizzazione, così la chiamiamo, di tutti gli oggetti che ci contornano, che si connettono e diventano intelligenti. Una cosa che mi dicevi, Gianfranco, è che si conferma anche la mania dei produttori di rendere disponibili questi oggetti smart ad essere connessi ad Alexa e a Google, con la follia di avere case che sono, non dico controllate, ma comunque affidate in buona parte ad Alexa e a Google per alcune funzioni, non dico di base, però alcune funzioni della casa. Sì, devo dire che ogni piccolo o grande produttore che aggiunge un device compatibile con questi, diciamo, ecosistemi è come se aggiungesse una maglia a una grande rete con la quale Google da una parte e Amazon dall'altra contano, o forse stanno già pescando, pesci ricchissimi. E i pesci ricchissimi hanno il nome di dati, informazioni. Tutto, guarda caso, non esiste una piattaforma di questo tipo che non sia in cloud. Cioè, anche ammesso di avere, questo faccio un discorso molto un po' più alto, è un po' teorico, ma anche ammesso di avere in casa l'intelligenza, quindi la potenza di calcolo sufficiente per potersi, ricavare l'interpretazione del mio parlato, eccetera, eccetera, e quindi potersi essere autonomi, farsi la propria intelligenza artificiale, tanto quanto con un NAS si fa la propria cloud. Ecco, guarda caso, tutti questi dati invece finiscono nelle cloud centralizzate, che costano ai fornitori, quindi ad Amazon e a Google, costa tenere in piedi questa infrastruttura e di fatto tenerla in piedi gratuitamente. In realtà i dati che queste reti macinano sono incredibili, perché quando io incomincio ad aggiungere gli smart speaker o addirittura gli spazzolini, le prese di corrente collegate ad Alexa o a Google Assistant, insomma saremo molto tracciati, il che potrebbe anche non darci noia, nel senso, io personalmente, per esempio, quando uso questi strumenti sono conscio che non ho nulla da nascondere, ovviamente finché questi dati restano in mani sicure e vengono usati, diciamo, sicuramente a fini pubblicitari, ma non cascano per esempio in mani di un topo d'appartamenti che ovviamente può sapere quando sono in casa o quando non ci sono, e questo mi darebbe evidentemente molto fastidio. Ma supponiamo che i dati siano protetti e ben sicuri, non ci siano data breach. Bisognerà incominciare a porsi la domanda della consapevolezza degli utenti. Sanno tutti quelli che si stanno mettendo in casa apparecchi di questo tipo? Sono tutti coscienti che è in atto uno scambio tra prestazioni da un lato e informazioni dall'altro, ovvero si fruiscono di prestazioni di intelligenza artificiale, per contro si cedono a terzi le informazioni sui propri gusti, abitudini, anche sulle proprie posizioni e su tutto il resto. Siamo tutti veramente coscienti? Non lo so. Punto interrogativo, giustamente. Senti, quindi comunque confermi che questi due trend sono evidenti, cioè Google Assistant e Alexa dappertutto e smartizzazione di tutto, anche di cose magari un po' sì, assurde. Ovunque, e devo dire, se prima queste funzioni erano appannaggio dei grandi brand, dei grandi produttori, di quelli medi, io in realtà oggi, passeggiando all'Eureka Park, che è il padiglione di tutte le startup, credo che almeno più del 50% delle startup proponessero qualche cosa di connesso con Alexa o con Google Assistant, soprattutto con Alexa, devo dire, che ha probabilmente un ecosistema più facile da integrare. Se arrivano addirittura le piccolissime startup ad avere la certificazione di integrazione, a questo punto si può immaginare che la proposta sarà totale. Io non so se tutte queste proposte hanno motivo di esistere, cioè se abbiamo già capito qual è la killer application oppure no di questi strumenti. Credo sia ancora da dimostrare, anche perché finché l'interazione resta solo o prevalentemente vocale con questi assistenti virtuali, credo che ancora le vere potenzialità non le mettiamo a terra, non le vediamo. A proposito di questo trend, ci sono, e potremmo farne una lista lunga, però ne puoi scegliere una o due nella mania di smartizzare, rendere smart tutto, si raggiunge anche il ridicolo a volte. Ma non so, mi viene in mente tra le tante cose viste in questi giorni, non so, il rasoio a lametta Bic Smart, che di fatto dà qualche informazione su come ti sei rasato la barba, su quanti passaggi hai fatto sulla destra più sulla sinistra, quindi presumibilmente sei meglio rasato da una parte o dall'altra, su quante volte hai usato la stessa testina, forse è il caso di cambiarla, ma anche qui torniamo al solito discorso. In realtà il vero obiettivo, anche dichiarato, è quello di raccogliere informazioni in maniera anonimizzata, dice Bic, sulle le modalità di utilizzo del rasoio da parte degli utenti e quindi riuscire in questo modo a migliorare i prodotti, le generazioni successive di prodotto. Beh, certo, come dire, una ricerca di mercato grande come il mercato, è il sogno di tutti i dipartimenti ricerca e sviluppo, però come ricompensiamo l'utente di aver partecipato a questa ricerca di mercato? Sì, mi vuoi parlare un attimo di cani e gatti? Sì, come no, anche quelli ci sono, per esempio abbiamo visto anche per esempio lo sportellino, quello che è molto in voga in America per fare entrare e uscire verso il giardino gli animali domestici, il cane e il gatto. Il problema è che insieme al cane e al gatto potrebbero entrare altri cani o altri gatti e magari anche qualche altro animale. E in realtà addirittura è arrivato lo sportellino smart, per cui quando il cane esce, o meglio entra, lo sportellino si chiude in quella direzione, non può più entrare un secondo animale, c'è una sorta anche di riconoscimento dell'animale grazie a un RFID da mettere sul collare, ci sono delle notifiche in tempo reale all'utente sullo smartphone se lo sportellino si apre o si chiude, in che direzione, quindi il tuo cane è uscito, il tuo cane è rientrato. Sì, stiamo tracciando tutto, è tutto molto bello, tutto molto bello, bisognerà anche vedere se ne vale la pena. Per esempio potrei dirti una macchina che miscela il latte in polvere, e quindi il latte in formula per i neonati, e lo mischia con l'acqua calda, eccetera, eccetera, e fin qui sembrerebbe una sorta quasi un piccolo frullatore con l'acqua, un miscelatore di acqua calda e polvere. No, perché anche questo è smart, ci dice, anzi lo si comanda dal telefono, ci dice quanto latte abbiamo preparato e di conseguenza tiene traccia di quanto il bambino mangia e se deve mangiare di più, se deve mangiare di meno, eccetera, eccetera. Tutte cose che in realtà si possono fare benissimo a mano. Io sono un po' laico da questo punto di vista, mi piace l'innovazione, non esageriamo. Certo, il CES negli ultimi anni si è trasformato per una buona percentuale anche in un appuntamento dove vengono presentati alcuni trend tecnologici che riguardano le automobili, forse i primi esempi di auto a guida autonoma quasi completi sono stati dimostrati pubblicamente al CES. Da questo punto di vista ci sono state alcune novità, ma forse potremmo dire una sorpresa che arriva non da un produttore di auto. Sì, proprio la parola sorpresa è la parola giusta, perché non lo sapeva nessuno, è stato anche strano e veramente complicato probabilmente anche per l'azienda in questione stessa riuscire a mantenere segreta la cosa. Chissà, magari fra qualche anno potremmo dire, ma ho comprato la macchina nuova, sì, e che macchina è? Una Sony. E questo è sicuramente risulterebbe strano, ma è Sony che a un certo punto, quasi in fondo alla conferenza stampa, ha aperto un grande portellone, ha fatto uscire sul palco, muovendosi sulle sue ruote, quindi una macchina decisamente funzionante, un coupé elettrica molto stilosa, molto sportiva, con questi vistosi cerchioni in lega, con, devo dire, gommata Pirelli e con i freni Brembo, quindi c'era anche un po' di Made in Italy, però è una macchina di produzione di progettazione e di produzione Sony. Cioè l'ha fatta evidentemente con alcuni partner, che ha anche citato, ma questi partner sono tutti parte di componentistica, non c'è un partner automobilistico, e diciamo Sony non ha preso una piattaforma già esistente e l'ha vestita con la sua tecnologia, ha proprio progettato tutto, e anzi ha promesso di mettere su questo piatto nei prossimi mesi, anni, delle chip, delle fish, visto che siamo a Las Vegas, cospicue. Si parla di 6 miliardi e mezzo di dollari, quindi cifre veramente molto importanti. Sappiamo che in tanti hanno provato a sviluppare un'auto, l'ultimo annuncio, diciamo forse non l'ultimo in termini temporali, ma l'ultimo abbandono è stato quello di Dyson, che pensava di progettare un'auto elettrica e poi ha capito che il business era troppo complicato anche per un'azienda che è mediamente ricca, come Dyson. Certo, Sony è un ordine di grandezza più grande probabilmente di Dyson, e anche una capacità forse industriale e di progettazione elettronica più ampia. Sappiamo che le auto sono sempre più elettroniche, dal punto di vista della meccanica un'auto elettrica è tutto sommato più semplice, molto più semplice di un'auto termica, perché ha i motori direttamente sugli assi. In questo caso la macchina Sony ce ne ha due da 200 watt ciascuno, e è molto più semplice ovviamente in termini di distribuzione, perché non ce l'ha e non ha il cambio, non ha la frizione, cioè è molto più facile da fare, però di lì a fare un'automobile ce ne passa. Che cos'è questa Vision S, perché così si chiama il progetto? Ma in realtà è un laboratorio viaggiante per il momento, cioè è una showcase di tutta la tecnologia Sony di imaging per il riconoscimento della strada, sia di immagine tradizionale ma anche di radar e di ultrasuoni, e una tecnologia che Sony ha sviluppato di LiDAR allo stato solido, quindi diciamo i radar quelli più sofisticati, ma non quelli rotanti, ma allo stato solido, e tutti questi 33 sensori stanno sulla macchina Sony a dimostrare cosa Sony può fare. Adesso, se poi Sony ha intenzione, come potrebbe anche essere, di andare avanti e sviluppare e diventare poi un produttore di automobili in concorrenza con gli altri produttori, lo si scoprirà soltanto negli anni. Forse, alcuni dicono, è soltanto una dimostrazione di integrazione della tecnologia Sony per cercare poi di vendere questa tecnologia ai produttori di auto che contano poi di portarle veramente sul mercato. Questo non lo sappiamo, però sicuramente nello stand Sony sono tutti attorno a questa macchina, che ha anche un sacco di altre cose elettroniche molto carine all'interno dell'abitacolo, come per esempio gli speaker audio, tanto per dirne una, integrati anche nel sedile, quindi ogni passeggero ha, come dire, due canali surround direttamente sulla spalliera del sedile, ecco, cosa che nessuno aveva mai fatto. Sì, infatti tra i trend di cui parleremo nelle prossime settimane c'è anche quello dell'audio, che sempre più viene diffuso con soluzioni che non prevedono direttamente speaker, o che comunque prevedono soluzioni integrate in varie modalità, sia nella casa ma soprattutto nelle automobili. Ci sono alcuni spunti molto interessanti. Gianfranco, grazie per essere stato con noi, ti aspettiamo nei nostri studi per approfondire alcuni dei temi ai quali abbiamo accennato, ce ne sono anche altri di cui parleremo nelle prossime settimane. A presto e buon viaggio di ritorno. Grazie mille. Due parole a proposito di CES sulle start-up italiane, sulla presenza del nostro paese in forma organizzata. È il terzo anno che ci siamo, grazie a Tilt e grazie anche a Italian Trade Agency, e probabilmente nei prossimi anni crescerà questa presenza. Siamo arrivati a 47 start-up presentate al Consumer Electronics Show. Ovviamente numeri che non sono paragonabili con nazioni che si sono da tempo organizzate in modo strutturato, molto forte, come la Francia, che è presente da anni con decine di start-up. Poi non è detto che tutte queste startup, ma comprese le italiane, abbiano buoni prodotti, buone idee per avere successo, però sicuramente a livello di paese la Francia dà un esempio. Gli americani, ça va sans dire, anche perché giocano in casa e poi le loro startup sono un po' diffuse dappertutto, non in una zona organizzata. Questo supporto è stato promesso anche dal ministro dell'innovazione Paola Pisano, che era presente al CES e ha lanciato un programma di supporto per le startup chiamato Made It, Made.it, e alcuni, tra cui Gianfranco Giardina, hanno fatto notare che Made.it è perfetto per un sito internet, quindi uno si aspettava di trovare già il sito internet bello e fatto. Dopo l'annuncio del programma uno andava su Made.it a vedere i dettagli. Peccato che questo dominio fosse già registrato, e la stessa ministra ha ammesso che quello è un problema e dovranno trovare una soluzione. Devo anche dire che più che far progetti e programmi a favore delle startup, bisognerebbe creare le condizioni per favorire le imprese, tutte le imprese, non solo le startup, perché il posto, uno dei posti migliori dove creare startup sono gli Stati Uniti, e negli Stati Uniti è più semplice, non dico semplicissimo, ma è più semplice creare impresa, punto, non creare startup. Poi certo c'è tutto un sistema di supporto alle startup, non ultimo il venture capital. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, adesso abbiamo una breve pausa, riprendiamo tra poco. Tutte le nostre puntate sono disponibili sul nostro sito internet oppure attraverso la nostra applicazione per iOS o Android, radio24.it, oppure appunto la nostra app per smartphone. Siamo presenti anche su Spotify, Apple Music, Google Music e tutte le altre piattaforme per gestire i podcast. Il nostro è stato ribattezzato Super Podcast perché mettiamo tutte le nostre interviste in edizione integrale. Contenuti aggiuntivi online. Io sono Enrico Pagliarini. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Potete utilizzare anche Facebook, Twitter o LinkedIn. Adesso è con noi Matteo Danieli, che è uno dei fondatori ed è responsabile dello sviluppo del prodotto in Bending Spoons. Benvenuto a 2024. Grazie. Lo sviluppo di un'app è un mestiere molto serio. Gli smartphone hanno creato un mercato delle app, la cosiddetta app economy, e sviluppare in modo opportuno e efficiente una buona applicazione è fondamentale, sia se il vostro prodotto o il vostro servizio passa solo attraverso quella applicazione sullo smartphone, sia se il vostro servizio o il vostro prodotto viene veicolato attraverso altri canali, ma l'applicazione è un elemento importante di contatto con il vostro cliente, il vostro consumatore. Voi, Matteo, siete una delle principali società al mondo di sviluppo di app, giusto? Esattamente, anzi do subito una statistica: se si guarda all'Europa ad esempio e si tiene conto del numero di scaricamenti che avvengono dei prodotti che un'azienda che sviluppa app fa, Bending Spoons è al primo posto in tutta Europa, addirittura davanti a Spotify, il che significa che ogni giorno ci sono 200.000 persone, anche di più, in giro per il mondo che scaricano una delle nostre app. Allora, poi scendiamo nel dettaglio per capire che cosa fate, però a proposito di applicazioni che voi producete, che quindi avete messo a disposizione sull'App Store di Apple, poi spieghiamo anche perché questo è il vostro mondo, facciamo dei nomi, quali sono le applicazioni? Sì, faccio magari l'esempio di due applicazioni. Una si chiama Splice ed è un prodotto che permette di montare video su mobile. Sempre di più la produzione di contenuto video si sta spostando sul nostro smartphone, abbiamo accesso a camere che sono estremamente professionali ad alta risoluzione. Con Splice una persona può rimanere sul suo device, montare un video, condividerlo sui social media o con i suoi amici istantaneamente a un livello di professionalità molto alto. Se voi dite con questa app sei come Spielberg nel tuo smartphone. Esattamente. Date questa possibilità. Un'altra app molto famosa si chiama 30 Day Fitness, in Italia l'abbiamo rinominata Sfida 30 giorni in forma. Nel 2018 è stata in assoluto l'app di fitness più scaricata sull'App Store globalmente al mondo, e questa app permette di allenarsi a casa. Sulla base di quelli che sono gli obiettivi di allenamento crea un piano che si può seguire. Questo piano mostra degli allenamenti da fare con video ad alta risoluzione e con spiegazioni dettagliate di ogni movimento. Quindi si può allenarsi senza avere bisogno di un personal trainer ad un prezzo molto più basso di quello che costerebbe l'abbonamento della palestra e un professionista che segue l'allenamento. Sono applicazioni a pagamento, giusto? Sono applicazioni a pagamento, c'è sempre la possibilità di provare la funzionalità in modo gratuito nel momento in cui l'applicazione dovesse piacere. Sono le persone direttamente a pagare il servizio. Nella maggior parte dei casi non ci affidiamo alla pubblicità per monetizzare le nostre applicazioni. Ecco, dopo parliamo anche di come ci si fa trovare, perché uno dei grandi temi è: io ho uno smartphone e anche qui ci sono tanti dati, tante statistiche, ma è anche intuitivo, difficilmente avrò 500-200 applicazioni. Alla fine poi il nostro mondo delle applicazioni si riduce a poche decine, immagino. E l'altra statistica complementare è che ci sono milioni di applicazioni che sono state sviluppate, che continuano ad essere sviluppate, per cui diventa difficilissimo per un'azienda come Bending Spoons, per qualsiasi altra azienda che si occupa di sviluppare applicazioni, di far sì che le proprie vengano scaricate e abbiano successo. Esatto, perché chissà quante applicazioni di fitness ci sono. Centinaia di migliaia probabilmente. Quindi il vostro business è produrre applicazioni e vendere le applicazioni. Quindi voi non producete applicazioni per altri, non fate sviluppo di app per altri. Esattamente, riceviamo tantissime richieste di sviluppo applicazioni, le decliniamo, preferiamo concentrarci su prodotti nostri che concepiamo noi, che distribuiamo noi, che mettiamo direttamente in vendita. Siamo responsabili a Bending Spoons di tutto quello che è il ciclo di produzione e di vita di un prodotto, quindi proprio dalla concezione, dalla strategia, il design, il test, la prototipazione, lo sviluppo in codice, la distribuzione globale e la monetizzazione. Quanti siete? In questo momento siamo 150 persone. Per sviluppare sì, allora, quante applicazioni? Perché tu ci hai citato due applicazioni, ma ne fate una decina, una dozzina? Nel corso della nostra storia ne abbiamo sviluppate davvero tante. Okay. Sempre di più poi ci siamo focalizzati su poche applicazioni che rappresentano la componente più importante del nostro portafoglio. Diciamo che in questo momento stiamo gestendo una decina di applicazioni, poco più. Anche se appunto quelle che ho menzionato prima, Splice e 30 Day Fitness, sono quelle più importanti del nostro portafoglio in questo momento. Certo, ti vorrei chiedere subito, far fare una considerazione su l'importanza delle applicazioni nel mondo di oggi. Io dicevo poco fa che noi abbiamo lo smartphone attaccato, cioè vicino per buona parte della giornata, e lo tocchiamo tantissime volte, decine di volte in una giornata. Le applicazioni sono molto importanti, alcuni servizi sono fondamentalmente un'applicazione, non c'è altro, quindi tutto passa di lì. Però in generale ci sono tante aziende che fanno altro, ma che in qualche modo raggiungono i consumatori o erogano qualche servizio al consumatore tramite l'applicazione. Ma non so quanto sia diffusa la sensibilità rispetto all'importanza che un'applicazione sia di grande qualità, che sia aggiornata. Quindi non è che tu fai l'applicazione, poi la molli lì e ciao, arrivederci. Assolutamente, sono molto d'accordo. Me ne rendo conto scaricando applicazioni che grandi aziende, il cui core business non è fare applicazioni, hanno sviluppato per corredare i loro servizi. Molto spesso sono applicazioni difficili da navigare, con tantissime funzionalità che sono difficili da scoprire, e si vede proprio che non c'è una sensibilità per quello che serve per fare un'applicazione che è fondamentalmente intuitiva, funzionale, veloce. E sono considerazioni importantissime, perché il fatto che la tua applicazione sia facile da scoprire piuttosto che no fa tutta la differenza tra il fatto che le persone la utilizzino oppure no. Sì, e voi ponete, diciamo, massima attenzione, i risultati ve lo confermano, alla qualità e alla produzione dell'app, ma immagino anche all'aggiornamento, cioè che non so se è più importante l'aggiornamento della produzione. Sì, sono entrambi ugualmente importanti. La produzione, nella produzione investiamo tantissime ore dal punto di vista della prototipazione e del testing di quello che stiamo facendo, in modo da assicurarci che i prodotti siano funzionali, utili, intuitivi. Nel momento in cui un prodotto viene poi rilasciato, lì inizia la vera battaglia, perché devi affrontare la concorrenza di decine, centinaia di sviluppatori come te, che lanciano prodotti fondamentalmente simili in molti casi, per cui lì l'importante è capire quale funzionalità deve essere aggiunta per rendere il tuo prodotto più competitivo, piuttosto che aggiornare l'applicazione in modo che certi paradigmi del modo in cui noi interagiamo con l'ecosistema mobile siano integrati nell'applicazione stessa. Faccio un esempio: quando Instagram ha lanciato un aggiornamento della sua app molto più semplificato, facile da navigare su bianco e nero, molti altri sviluppatori hanno seguito quest'idea che forse, soprattutto sul mobile, la semplicità paga. Non occorre fare applicazioni che siano così complesse, quello che conta è mettere le funzionalità più importanti in primo piano e quello ti dà la massima chance di avere successo nell'utilizzo del tuo prodotto. Comunque una cosa importante mi sembra di capire che per sviluppare un'app e per mantenerla aggiornata servono decine di persone, cioè è difficile che in due o in tre si faccia una buona applicazione. Sì, e infatti questo mi riempie un po' di nostalgia, perché all'inizio di Bending Spoons eravamo appunto quattro persone che si occupavano di tutto, quindi la parte di design, la parte di sviluppo. Adesso abbiamo riconosciuto che per ogni componente di quello che serve a fare un'applicazione serve qualcuno che si specializzi in questo. Quindi ad esempio per dare un'idea dei ruoli che sono coinvolti nello sviluppare un'applicazione, si va da un product manager che tenga le file del discorso e che quindi coordini tutte le persone che lavorano a un prodotto, a uno UX UI designer che si occupi di progettare l'applicazione stessa, sviluppatori sia dal punto di vista dello smartphone che dal punto di vista del server che permette all'applicazione di funzionare, esperti di localizzazione, perché poi le nostre applicazioni vengono rese disponibili in tutto il mondo, per cui è importante localizzarle se non altro nelle 10-15 lingue più importanti e più diffuse, e potrei stare qui, ci sono tantissimi altri ruoli anche magari un po' più periferici ma comunque molto importanti, come tutto quello che ha a che fare con l'essere in rispetto di tutte le leggi in tutto il mondo. Ad esempio pensiamo al GDPR, è importantissimo che ci sia una comprensione di queste leggi e che tutte le nostre applicazioni siano costruite in un modo che vengano faccia sì che queste leggi vengano rispettate. Certo, voi sviluppate solo per iOS, per quale motivo? Sì, storicamente abbiamo sviluppato principalmente per iOS, adesso stiamo iniziando a sviluppare anche per Android. Il motivo della nostra scelta primariamente era legato al fatto che monetizzando noi direttamente tramite i pagamenti che le persone fanno e non quindi tramite la pubblicità, vedevamo in iOS una piattaforma in cui vuoi anche un po' per il tipo di smartphone che le persone comprano, ovviamente il prezzo medio di un iPhone è molto più alto rispetto al prezzo medio di un device Android, vuoi anche per la facilità di utilizzo della piattaforma. È molto più naturale pagare per un'app nell'ecosistema iOS che non nell'ecosistema Android. Cioè, i dati dimostrano che utenti banalmente iOS... il fatturato, voglio dire, il giro d'affari delle applicazioni, di quello che le persone pagano all'interno delle applicazioni iOS è il doppio. Si parla nel 2018 di all'incirca 40 miliardi di dollari rispetto a quello che viene speso sulle app sulla piattaforma Android. Pazzesco, eh? Cioè, considerando che a livello mondiale grosso modo un quinto degli utenti ha un iPhone, però questo quinto spende il doppio di tutti gli altri. Esattamente. Quindi se uno vuol far business dice: dove vado? Sì, e poi il nostro mantra è sempre stato: concentriamoci, facciamo bene una cosa piuttosto di professarci esperti in 15 campi diversi. Per noi quel fare bene era appunto il diventare massimi esperti della piattaforma iOS. Mm-hmm. Questo non significa che però non lanceremo soprattutto le nostre app di maggior successo anche sulla piattaforma Android. Questo è qualcosa che stiamo già iniziando a fare. E sono già disponibili o non ancora? C'è un'applicazione che abbiamo sviluppato di recente che si chiama Sleep, ed è un'applicazione che aiuta le persone a rilassarsi prima di andare a letto, in modo da aumentare la probabilità che si addormentino senza problemi e quindi sconfiggere questo grande problema dei nostri tempi che è l'insonnia. E questa applicazione l'abbiamo lanciata di recente anche sul Google Play Store. Ok, visto che siamo entrati, abbiamo citato l'App Store di iOS di Apple, il Google Play Store, che cosa ne pensi tu e che cosa ne pensate voi in azienda degli store alternativi per Android, che già esistono, anche se probabilmente sono usati dai più smanettoni, non dal grande pubblico, e dai tentativi anche di creare degli store alternativi dei grandi player Samsung, Huawei che ci sta provando in tutti i modi, quindi anche ti volevo chiedere quali sono poi le difficoltà per gli sviluppatori di tutto ciò e quanto difficile per queste aziende è creare un'alternativa e se vedi alternative di sistemi operativi. Qua c'è questo grande dibattito tra Stati Uniti e Huawei che sta dicendo ma se non mi date più il permesso di utilizzare Android io dovrò cercare un'alternativa, quindi vorrei sviluppare, l'hanno un po' fatto un sistema operativo, però è tutt'altro che semplice e facile fare un sistema operativo. Assolutamente, io penso che queste considerazioni qui siano particolarmente importanti per quanto riguarda il mercato cinese, che è un mercato in cui abbiamo pochissima esperienza, sicuramente vogliamo che faccia parte della nostra strategia andando avanti, però dobbiamo ancora muovere i primi passi. Questo perché mentre al di fuori della Cina l'App Store su iOS e Google Play Store per quanto riguarda Android facilitano, portano a, io la statistica diciamo non la conosco ma immagino che sia il 99% di tutti gli scaricamenti di app, in Cina il Google Play Store è bannato, quindi l'unico modo che ho è vietato. Sì. Scusate questi termini ogni tanto anglofoni. E, perciò l'unico modo di scaricare un'app Android in Cina è quella di trovarla principalmente nello store legato al creatore del mio device piuttosto che nello store di Tencent e degli altri colossi cinesi del digital. In Cina è l'unico modo per raggiungere quel mercato. Perciò è molto importante nel momento in cui noi, Bending Spoons, ma qualsiasi altra azienda si affaccia a quel mercato, capire le logiche di questi sistemi. Per esperienza personale sarà molto difficile far sì che un prodotto funzioni e supporti facilmente le specifiche di tutti questi mercati. In realtà quello che succederà è che renderà le barriere all'ingresso nell'ambito mobile sempre più alte, perché nel momento in cui uno sviluppatore volesse entrare e competere deve assicurarsi che la sua applicazione non solo funzioni sulle migliaia di dispositivi diversi, con schermi diversi e caratteristiche tecnologiche diverse legate ad esempio al sistema operativo Android, ma per di più supporti tutti i meccanismi, ad esempio di pagamento all'interno dell'app, eccetera, che caratterizzano ognuno di questi store disponibili in Cina, ma che poi saranno disponibili anche negli altri paesi. Ok, e quindi diciamo, vista da questa prospettiva, cioè l'utente italiano, tu pensi che possano avere successo queste alternative o è molto difficile? Lo vedo come molto difficile, ovviamente questa è un'opinione personale. È più probabile invece che nella nuova, tutti ci stiamo interrogando, no? Quale sarà il prossimo paradigma di interfaccia uomo-macchina, molti parlano della realtà aumentata, nel momento in cui venisse lanciato un dispositivo di realtà aumentata nuovo, magari costruito da Facebook, a quel punto sarebbe quello lo store di riferimento e tutto cambierebbe. Però almeno dal punto di vista del mondo occidentale i giochi sembrano ormai un po' fatti per quanto riguarda lo store. Nel momento in cui io passo da un device all'altro, a quello successivo perché lo cambio, il fatto di avere accesso alla storia di prodotti, di software che ho scaricato sul mio dispositivo è molto comodo. Certo, molto importante. Mi permette di non dover di nuovo scaricarli a mano ogni volta e sì. Questo ovviamente rappresenta una comodità che fa sì che se io sono abituato a quel tipo di store magari ci rimango invece di trovarne uno di alternativa. Qual è secondo voi, a proposito di interfaccia utente, la prossima generazione? Cioè sarà la voce, perché alcuni dicono, quando si parla di assistenti virtuali, che Facebook, non Facebook, che Amazon, Google, un pochettino Apple e gli altri stanno cercando di metterci in casa, e appunto la realtà aumentata, realtà virtuale, quale sarà? E la tua domanda è qual è la vostra opinione? Rispondo dicendo qual è la mia opinione. La mia opinione personale è che la realtà aumentata potrebbe portare allo sviluppo di applicazioni che magari in questo momento stiamo soltanto immaginando, che sembrano assolutamente diciamo non indispensabili, ma che nel momento in cui entrassero a far parte delle nostre vite lo diventerebbero. E quindi se dovessi scommettere su una piattaforma che rappresenterà il futuro, io scommetterei su quella. La possibilità di insomma girare per una città, per un negozio e di subito accedere ad informazioni aggiuntive rispetto ai prodotti che sto per comprare, oppure a un ristorante in cui vorrei andare, rispetto invece al gesto di devo estrarre il mio smartphone e fare una ricerca porterà ad una modifica delle nostre abitudini digitali, e secondo me quindi è ben posizionata per rappresentare la nuova interfaccia, la nuova piattaforma. Questa è la mia opinione personale comunque. Voi vi siete concentrati su due macro settori nello sviluppo delle vostre applicazioni. Uno è il mondo dell'immagine, dell'editing video e dell'immagine in generale, l'altro è il mondo della salute, fitness. Perché? Abbiamo sempre avuto un approccio molto data driven, quindi basato sul dato a Bending Spoons, soprattutto dal punto di vista strategico e di mercato. Quindi prima di decidere di entrare in questi mercati nello specifico, abbiamo analizzato quelle che erano le performance di applicazioni già esistenti in questi settori. Abbiamo visto che questi mercati sono rappresentati da una crescita costante nel corso degli anni e una costanza nell'utilizzo che ci hanno reso molto appetibili questo tipo di applicazioni, ed è per questo che ci siamo concentrati su questi due verticali nello specifico. Questo non significa che andando avanti non aggiungiamo un'expertise e prodotti anche in qualche altro ambito. Se uno ha un'idea di una bella applicazione, viene da voi, cosa rispondete? Intanto rispondete, perché magari vi arrivano 200 idee al giorno e quindi non riuscite a rispondere a tutti. E io ricordo quando ero uno studente universitario con tante belle idee e non apprezzavo tanto moltissimo. Tempo fa. No. Allora, inizia ad essere un po' di tempo fa, questo succedeva magari 7, 8, 10 anni fa, e era sempre molto bello che nel momento in cui chiedevo opinioni riguardo le mie idee, che ci fosse qualcuno dall'altra parte che rispondeva e desse un suo parere. Quello che cerco di fare quando qualcuno propone un'idea per un prodotto è di dire: noi tendenzialmente non ci occupiamo di questo perché la nostra concentrazione sta sui prodotti nostri e avremo tante di quelle funzionalità da sviluppare sui nostri prodotti da tenerci occupati per i prossimi decenni. Però se posso dare un consiglio, se posso dare un feedback su quelle che sono le idee che mi arrivano, questo cerco sempre di farlo molto volentieri. E se un'azienda vi chiede di sviluppare, magari una grossa azienda che ha un budget importante, dice: voi siete bravissimi a sviluppare app, sviluppate la mia app. Questo succede molto spesso, purtroppo ancora una volta la nostra risposta è no, perché la nostra strategia molto chiaramente è quella di sviluppare i nostri prodotti. Voglio fare magari un approfondimento su questo ambito. Nel momento in cui ci sono le competenze che servono per sviluppare un prodotto mobile, c'è sempre questo bivio che si apre tra: ma cosa faccio? Lavoro sul mio prodotto o metto queste mie competenze a disposizione di aziende che ne hanno bisogno? E probabilmente è molto più facile avere successo mettendo queste competenze a disposizione di altre aziende, e fare un prodotto, lanciare un prodotto al giorno d'oggi dove c'è talmente tanta concorrenza è molto molto difficile. D'altro canto, se io sviluppando un software, un'applicazione, riesco a diffonderla a milioni, a decine di milioni di persone globalmente, dal punto di vista dei numeri che quel business mi può generare, non c'è assolutamente paragone con quello che potrebbe essere il business della consulenza. Ed è per questo che fin dall'inizio abbiamo scelto di orientarci verso la strada di prodotti nostri, da noi concepiti, da noi sviluppati, rispetto alla consulenza. E poi, permettimi di dirlo, anche perché ci si diverte di più, insomma, a lavorare sui propri prodotti e certo, avere soltanto i clienti, gli utenti finali, come giudici del fatto che quello che hai sviluppato sia effettivamente utile per loro oppure no. Non c'è dubbio, cioè non devi interagire con clienti che magari a volte non capiscono nemmeno molto di tecnologia e ti fanno delle domande assurde. In modo molto franco, penso che sia uno dei benefit che apprezzano di più le persone che lavorano con noi, il fatto di poter sviluppare su prodotti, di poter lavorare su prodotti nostri che diventano il nostro orgoglio e che finiscono direttamente nelle mani di milioni di persone là fuori. Come ci si fa conoscere su un app store dove ci sono centinaia, milioni di applicazioni, o forse miliardi di applicazioni, e comunque limitandosi al vostro settore, che ne so, 30 Day Fitness, questa applicazione che ti permette di mantenerti in forma con suggerimenti su come fare ginnastica, eccetera, eccetera, e come ci si fa vedere? È una domanda molto interessante. Diciamo che noi abbiamo due metodi che utilizziamo per far sì che i nostri prodotti siano conosciuti. Il primo è una diffusione che nel gergo si dice organica. Cosa significa? Ogni giorno ci sono persone che vanno sull'App Store, cercano un'app che risponda ai propri bisogni. Voglio allenarmi, voglio fare un editing delle mie foto. La cosa più naturale da fare è cercare sull'App Store parole che sono legate a quel caso di utilizzo. Ad esempio, editing foto. Siamo diventati nel corso degli anni esperti nell'arte di far sì che le nostre applicazioni compaiano ogni qualvolta una persona effettua una ricerca che è simile a quello che la nostra app offre. E questo non soltanto negli store diciamo più importanti per noi come quello americano. Un dato: il 50% del nostro fatturato viene generato negli Stati Uniti, soltanto l'1.4% viene generato in Italia. Quindi non soltanto nello store americano, ma anche tramite la nostra localizzazione, traduzione delle stringhe, delle parole chiave, anche in tutti gli altri store disponibili in giro per il mondo. Quindi il primo canale è riuscire a intercettare queste intenzioni di ricerca da parte delle persone. Il secondo è quello di utilizzare i media moderni, digitali, le social network, i vari Facebook, Instagram, Snapchat, addirittura TikTok, che è un nuovo fenomeno che si sta diffondendo sempre di più. Sfruttare questi canali per mostrare il valore che le nostre app offrono tramite creatività, pubblicità che interessano gli utenti, e poi portare queste persone sui nostri prodotti. E tutto questo lo affrontiamo in modo estremamente scientifico e tecnologico, nel senso che nel momento in cui noi andiamo a investire nella pubblicità online, ad esempio, riusciamo a tracciare tutti i passaggi dal momento in cui una persona vede una pubblicità fino al momento in cui installa la nostra applicazione e decide di pagare per i servizi che sono offerti all'interno dell'applicazione. Questo ci permette di assicurarci che ogni volta che investiamo un dollaro, un euro, noi ragioniamo spesso in dollari visto il nostro mercato, certo, e la redditività di quel dollaro investito sia superiore a una certa soglia che ci poniamo come riferimento. Interessante. Tu hai citato il mercato americano, voi siete italiani al 100%, giusto? Assolutamente, orgogliosamente italiani al 100%. Esatto. Anche se siamo internazionali, perché il 10-15% delle persone che lavorano a Bending Spoons sono internazionali, vengono da paesi fuori dall'Italia. Certo, immagino che anche questo dato sia in aumento, visto che il mercato diventa sempre più importante a livello internazionale. Però l'idea di Bending Spoons è nata all'estero, giusto? Corretto. Dove? È nata in Danimarca, non perché diciamo sia l'esito di una forte riflessione, semplicemente noi fondatori studiavamo in Danimarca in quegli anni, ci siamo conosciuti, siamo diventati amici prima, coinquilini poi, e poi abbiamo deciso di fondare assieme un'azienda perché tutti noi eravamo molto affascinati dall'idea di imprenditoria. Volevamo creare la nostra azienda, volevamo creare la migliore azienda al mondo nelle nostre menti. Nel momento in cui l'azienda ha cominciato a crescere, ci siamo subito posti l'interrogativo di qual è il posto migliore in cui l'azienda possa crescere. Vedevamo in quegli anni, purtroppo lo continuiamo a vedere, un fenomeno molto triste, cioè il fatto che le nostre migliori menti, i nostri migliori talenti se ne vadano all'estero alla ricerca di opportunità migliori di quelle che l'Italia offre. Abbiamo detto: perché non torniamo e perché non offriamo i posti di lavoro di Bending Spoons alle persone che, se non trovassero questi posti di lavoro, probabilmente se ne andrebbero all'estero a lavorare? E siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo costruito. Molto spesso abbiamo intercettato persone che se ne sarebbero andate, se ne stavano per andare, e abbiamo addirittura riportato in Italia persone che magari lavoravano in grandi aziende all'estero, ma vista la nostra realtà hanno detto: ma allora qualcosa di buono sta succedendo anche in Italia, posso tornare dai miei amici, posso tornare dalla mia famiglia, posso tornare dai certo, miei cari. Nel mio paese anche. Sì. Quindi voi dimostrate, ci dite che comunque, cosa di cui io sono convintissimo, che nonostante tanti problemi che abbiamo, fare aziende in Italia e fare aziende nel digital, dove noi nelle classifiche internazionali non è che eccelliamo, perché se un italiano va all'estero per vendere cibo magari è credibile, per vendere tecnologia a volte ti guardano un po' strano. E voi ci dite che invece non è così. Dalla nostra esperienza personale, che è stato possibile creare qualcosa di formidabile anche in Italia, siamo davvero orgogliosi che adesso, soprattutto in certi ambiti, nell'ambito mobile, nell'ambito tech, nel momento in cui si pensa a un'azienda che sta davvero mostrando innovazione, crescita in ambito mobile, Bending Spoons è una delle prime che viene menzionata. Quindi l'italianità è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi, e siamo anche orgogliosi di mostrare appunto che anche in Italia si può creare una realtà simile a quella della Silicon Valley. Si trovano le persone, le professionalità? Perché molte persone che lavorano nel digital mi dicono: ma io non trovo le persone. Il nostro approccio a questo è di avere delle competenze molto forti internamente all'azienda. E quindi se anche non riusciamo a trovare la persona che magari ha 5-6 anni di esperienza in un certo ambito, faccio un esempio: l'App Store è stato aperto 10 anni fa, Quindi il massimo di esperienza in ambito App Store iOS che puoi trovare per uno sviluppatore è 10 anni, non si va oltre quella cifra. Però il nostro approccio è che se non troviamo qualcuno che ha esperienza, non ci facciamo problemi, andiamo a catturare le persone che si sono appena laureate, menti brillanti, che vengono a lavorare da noi, e noi abbiamo messo in piedi un sistema di training, di coaching, che fa sì che queste persone acquisiscano tutte le competenze necessarie per essere produttivi all'interno della nostra realtà. Quindi in qualche modo le trovate le persone. Non sarebbe più facile trovare competenze aprendo uffici nelle capitali dove ci sono un sacco di sviluppatori? Secondo me no, infatti se aprissimo un ufficio a Berlino ad esempio, sì, forse ci sarebbero più competenze, però ci sarebbero anche molte più realtà digitali simili alla nostra che potrebbero in qualche modo competere per quelle competenze. Riscontriamo meno di quella concorrenza in Italia e quindi da questo punto di vista per noi è più facile. C'è poi un vantaggio nel momento in cui si è un'azienda molto, molto innovativa, e Bendingspunt lo è, c'è un vantaggio importante nel fatto che le persone che danno vita a questa innovazione siano tutte quante nello stesso ufficio, dove le conversazioni possono avvenire in maniera molto veloce, in maniera molto efficiente, le idee si scambiano, le idee nascono. Molta dell'innovazione che generiamo, dal mio punto di vista, è anche dovuta al fatto che siamo tutti sotto lo stesso tetto. Questo è interessante e importante, perché voi stessi dite i nostri dipendenti possono lavorare da dove vogliono, cioè possono non venire in azienda, stanno a casa col computer, però poi in realtà stai dicendo che la presenza fisica di tutte le persone in uno stesso luogo è molto importante. Sì, assolutamente. Beh, innanzitutto noi non amiamo il termine dipendenti, perché configura un rapporto di in qualche modo subordinazione che vogliamo il più possibile evitare di menzionare. Per noi, insomma, noi siamo partner, siamo tutti partner, e le idee buone possono venire assolutamente da tutti, non devono necessariamente venire dall'alto, dal basso, non vogliamo fare questi riferimenti poi neanche fisici. Quello che cerchiamo di fare è di creare l'ufficio. Abbiamo un approccio all'eccellenza in tutto quello che facciamo, per cui anche per quanto riguarda il nostro ufficio abbiamo cercato di creare il miglior posto dove si possa lavorare. Tu entri, non devi pensare a nulla, perché il pranzo viene fornito da noi attraverso un servizio di catering a cui ci appoggiamo, ci sono snack in cucina, frutta, tutto a disposizione in modo da non doverci pensare. È un ambiente molto funzionale, dove esiste sia una parte di open office in cui puoi sentirti circondato da persone che lavorano, ma anche una parte di uffici un po' più isolati, dove le persone che cercano di concentrarsi lo possono fare. Quindi creiamo il miglior ambiente possibile immaginabile, però al tempo stesso parte di questi benefit è anche il fatto di avere una flessibilità pressoché totale per quanto riguarda il dove io lavoro. Se sono una persona che preferisce, che è molto produttiva la sera, banalmente perché siamo tutti diversi, ci sono le persone che si svegliano alle 6 di mattina e lavorano al meglio in quel momento, quelle che invece sono animali notturni e vogliono stare svegli fino alle 2. Riconosciamo questa individualità e la riconosciamo dando la possibilità alle persone di organizzarsi come vogliono. La decisione che possono prendere è anche quella di lavorare in ufficio piuttosto che da casa. Quello che abbiamo riscontrato è che proprio offrendo un ambiente di lavoro che sia bello, ma non soltanto dal punto di vista degli spazi, ma anche dell'ambiente che si crea in ufficio, dove i rapporti tra le persone vanno oltre il professionale e diventano amicizie, molto spesso questo attira le persone al punto tale che, nonostante appunto ci sia questa flessibilità di lavorare da casa, molti, la maggior parte, sceglie di venire in ufficio. L'ultima domanda riguarda il futuro, cioè comunque anche i prossimi mesi. Le cose più nuove che state sviluppando e le cose più nuove che vedremo nei prossimi anni, qua si parla di intelligenza artificiale, di realtà aumentata, di realtà virtuale, che cosa vedremo? Quali sono i trend di sviluppo che voi vedete interessanti? Quello che cerchiamo di fare è di assicurarci che, insomma, di evitare di salire sul carrozzone della nuova tecnologia semplicemente perché è sulla bocca di tutti, e quindi valutare approfonditamente se quella tecnologia fa il caso nostro. Sicuramente siamo molto... pensiamo che l'intelligenza artificiale, il machine learning, possa aiutare tantissimo. Un ambito di applicazione in cui ci stiamo muovendo adesso, ma è soltanto un esempio, non vuole essere, diciamo, immagino verrà qualcosa di ancora molto più interessante, però sempre ricollegandomi alla nostra applicazione Sleep, quella che aiuta le persone ad addormentarsi con delle meditazioni, con delle storie, in quell'app collaborando con una psicologa che ci ha seguito negli studi che abbiamo fatto, abbiamo scoperto che in realtà non c'è una formula unica, univoca per rilassare le persone. Ci sono cose completamente diverse che fanno rilassare una persona rispetto a quello che fa rilassare un'altra. E quello che stiamo cercando di fare è di applicare machine learning per far sì che, a seconda di quello che una persona ci dice rispetto a quello che sono i suoi gusti o la reazione a alcuni brani che facciamo ascoltare, noi possiamo raccomandare istantaneamente tutta una serie di contenuti all'interno dell'app che sono specifici e pensati per quella persona e che hanno la massima probabilità di far sì che si addormenti. Ovviamente questo qui è un esempio molto, molto piccolo e molto, molto confinato, ma in generale sono molto speranzoso su l'impatto che il fatto di applicare questo machine learning, non perché ancora di nuovo è sulla bocca di tutti e quindi va assolutamente fatto, ma perché ha senso, questa cosa qui permetterà alla nostra interazione con le tecnologie di diventare molto più positiva e di molto più valore per noi. Non ti ho domandato perché vi chiamate Bending Spoons, i cucchiai che si piegano, no? Tradotto sì. Così, ho tradotto sì. Male? Allora, non è molto particolare, me ne rendo conto, si spera che oltre ad essere particolare poi rimanga anche in mente perché non si dimentica facilmente. No, l'idea ci è venuta da un film, Matrix, dove c'è una scena di un bambino che con il pensiero riesce a piegare un cucchiaio. E questo bambino spiega al protagonista che in realtà non è il cucchiaio che si sta piegando, ma è il punto di vista della persona che fa sì che il cucchiaio si pieghi. È una metafora molto interessante questa, perché molto spesso quello che sembra impossibile è impossibile soltanto negli occhi della persona che lo considera tale, ma il fatto di spostare il proprio angolo di veduta porta a una conclusione completamente diversa. E ci ha portato fortuna, perché quando abbiamo iniziato Bending Spoons eravamo degli studenti universitari allo sbaraglio, senza alcun successo o progresso che dimostrasse che ce l'avremmo potuta fare, però credendoci, avendo questo sogno sempre in testa e lavorando alacremente e circondandoci di persone di estremo talento che hanno creduto in questa missione, in questo sogno, siamo riusciti a fare molto. E siamo molto molto però ancora ambiziosi e affamati e curiosi di sapere quello che verrà. Quindi avete cominciato a piegare i cucchiai. Esattamente. Matteo, grazie per essere stato con noi. Grazie. Abbiamo terminato anche per questa settimana, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato oppure ascoltato in streaming questa che è la versione super podcast del nostro programma. Fateci pubblicità anche a partire da questo nuovo anno 2020, scrivetemi a 2024@radio24.it oppure Facebook, Twitter o LinkedIn. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.